oggi è venerdì, tu sei qui. Come mai a mezzogiorno? E sei bella, sì, sei più bella, sì, che ti vedo quando è giorno. Come vedi? Yeah, yeah, yeah, yeah. Vorrei, ma a volte nevica giù. Nevica giù.